1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:23 minuti, eccoci allora a leggere i giornali, cari ascoltatori. Che dire, oggi parleremo di due storie che provengono dalla Sicilia, se volete, ma ben diverse. Avremo il sindaco di Monreale, dove ci sono un numero di forestali solo in una frazione di Monreale tanti quanti ce ne sono in Liguria. Questa è anche un aspetto della Sicilia già trattato in passato. Poi oggi è il 23 maggio, la strage di Capaci, l'anniversario. Ricordate quando un anno fa ospitammo Giuseppe Costanza, che era l'autista di Giovanni Falcone, l'uomo che ha condiviso gli ultimi 8 anni di vita, l'uomo che è sopravvissuto a Capaci nel suo lungo sfogo di un anno fa. Raccontava di un uomo abbandonato totalmente dalle istituzioni. È cambiato qualcosa? Oggi lo richiameremo, sarà con noi ancora alle 8:30 Giuseppe Costanza, a giudicare anche da quello che è successo 2 giorni fa a Ballarò, con il Presidente del Senato, Piero Grasso, che ha parlato di un autista che era lì senza neppure nominarlo e senza dire anche che era sopravvissuto. Beh, forse non è davvero cambiato niente. Ne parleremo più avanti però, ora intanto le notizie che troviamo sui giornali. Giovedì 23 maggio, per l'appunto, i titoli, come da qualche giorno ognuno va un po' in ordine sparso come scelte di prime pagine. Il Sole 24 Ore, casa e condominio, tutte le novità e gli sgravi, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, i vincoli dell'Europa all'Italia, dunque il lavoro e il Consiglio europeo con Enrico Letta ieri all'esordio. Il Messaggero, incentivi per nuove assunzioni, Avvenire, promesse di lavoro. E poi incredibilmente la legge elettorale rispunta sulle prime pagine dei giornali. La Stampa, legge elettorale, PD e PDL divisi. Repubblica, un altro porcellum, rissa PD-PDL. L'Unità, la fine del porcellum, forse. Per il Giornale, smontata Equitalia. Per Libero, una polemica su Milano, sfilate Rom, paghiamo noi. Mentre c'è chi sceglie di mettere la scomparsa di Don Andrea Gallo in prima pagina. Il Secolo XIX fa una doppia prima pagina, una proprio con Don Gallo, beati gli ultimi, questo è il titolone di prima pagina. Grazie Don è invece il titolo del Fatto Quotidiano, mentre il Manifesto, il Padre Nostro, e c'è la foto appunto di Don Gallo. Voglio partire da due notizie che vi faranno tenere ben salde le mani sul volante, oppure far appoggiare le solite tazzine di caffè bollente. La prima riguarda la scomparsa di Giulio Andreotti. Il Messaggero, questa notizia secondo me è una chicca, che trovate a pagina 6. Sapete che quando un parlamentare cessa di fare il parlamentare, gli spetta l'assegno di fine mandato, no? Quando un parlamentare muore, pure spetta l'assegno di fine mandato, che è reversibile ai parenti. E allora ecco qua, il Senato senza liquidità chiede tempo per pagare la liquidazione di Andreotti. Gerardo Ausiello, pagina 6 del Messaggero. A Palazzo Madama si parla ancora di Andreotti. Gli eredi del senatore a vita, scomparso il 6 maggio, dovranno incassare l'assegno di fine mandato. Una sorta di trattamento di fine rapporto del parlamentare, solo che i calcoli sono complicatissimi perché Andreotti è da 65 anni al Parlamento, è un padre costituente, ha ricoperto importanti e prestigiosi incarichi di governo, da allora è rimasta a Palazzo Madama dove si è recato praticamente ogni giorno. Per l'assegno di fine mandato ogni anno è stata accantonata una somma che si aggirava sui 10.000 euro ai valori attuali, ma prima c'era la lira, poi c'è l'euro, insomma si aggira torno a 650.000 euro, poi bisogna tener conto della rivalutazione che è stata significativa, insomma per il Messaggero si arriverà attorno a 1 milione di euro e il Senato non ha i soldi, non ha la liquidità, bisogna trovarli nei fondi del bilancio, tutto regolare per carità, il tesoretto appartiene legittimamente all'ex senatore che l'ha accantonato, gli è stato trattenuto come il TFR a tutti noi comuni mortali nello stipendio, e si tratta però di una somma molto alta di cui il Senato non dispone materialmente ma che naturalmente verrà erogata come prevede la legge nelle prossime ore. E che faranno? Faranno un mutuo al Senato? Faranno un prestito? Chiederanno un prestito a una banca al Senato per pagare 1 milione di euro circa agli eredi di Andreotti? E tutto, ripeto, legittimo. A proposito di politica, vi voglio regalare anche questa. Da due giorni il Sole 24 Ore raccoglie e pubblica i verbali dell'ex tesoriere della Lega Belsito quando fu interrogato, e anche oggi c'è qualche chicca anche qui non indifferente. Una su tutti la racconta Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi a pagina 12 del Sole: Belsito e la tappa, La talpa, no, mica il Giro d'Italia, la talpa di via Bellerio. Cioè racconta Belsito, senza che neanche il PM glielo chieda, lo tira fuori proprio lui in fase di interrogatorio, che alla Lega sapevano, quando c'era Belsito, sapevano prima delle visite della Guardia di Finanza che andava a cercare documenti. Guardi, dice Belsito al PM, vorrei che qualcuno mi spiegasse qualcosa. Sapevano che arrivavano le perquisizioni prima. E allora che ti fanno? Questo racconta Belsito. E allora escogitano alla Lega questo trucchetto. Cambiano le targhe della stanza dove c'era ufficio contabilità e dunque ci sono i documenti, prendono la targhetta dell'ufficio contabilità e la spostano e mettono lì le targhette tipo stanza dell'onorevole Pinco Pallino della Lega, e allora quello diventa un ufficio, una rappresentanza parlamentare nella quale i militari che si presentano non possono entrare perché c'è la immunità, diciamo, c'è l'inviolabilità del Parlamento e di tutte le sedi considerate parlamentari. Ecco, allora il trucchetto straordinario: sapevano prima dell'arrivo della Guardia di Finanza, così racconta almeno Belsito, e scambiavano le targhette. E quindi racconta: guardi, non si poteva controllarle, ma certo, come mai nelle stanze della contabilità dove c'era Nadia D'Agrada, che era dirigente, dove stava la Pizzi, un'altra dirigente, cioè i nomi dei dipendenti, sono stati spostati, e fuori c'era scritto onorevole Pinco Pallino? Scambiavano le targhette. Ma questo è straordinario, ma è il trucco più geniale. Uno sa che prima arriva la finanza, cambia e scambia le targhette e via. La finanza non può entrare a controllare laddove dovrebbe controllare. Questo almeno racconta l'ex tesoriere della Lega Belsito, intervistato negli stralci dell'interrogatorio che oggi sono riportati dal Sole 24 Ore, pagina 12. Evviva, evviva! Se leggete i giornali troverete sicuramente tanto del primo Consiglio europeo a cui ha partecipato il premier italiano Enrico Letta. Tra l'altro racconta Gerardo Pelosi, non nascondendo anche una sorta di emozione. A pagina 7 Gerardo Pelosi racconta proprio, tiene a bada le emozioni, ma fino a un certo punto il premier Enrico Letta al suo primo vertice europeo, con mezzi sorrisi, occhiate, tradisce il compiacimento ma anche la responsabilità di essere entrato nel club giusto e di esservi accolto con calore e simpatia dagli altri capi di Stato e di governo. Il tema che Enrico Letta ha portato avanti con convinzione, come fa in varie dichiarazioni da tempo, è la questione del lavoro giovanile, la disoccupazione priorità europea, e questo è infatti il titolo del Sole 24 Ore, pagina 7. Tra l'altro, se leggete qualche titolo di giornale, ragazzi, per carità, poi dite che la colpa è mia, ma io sono l'autore di quello che leggo sui giornali. Una serie di titoli deprimenti, che peraltro sono anche la fotografia dell'Istat, quindi dati accertati, titoli deprimenti sulla questione del lavoro ai giovani. Guardate qui: un italiano su quattro vive di rinunce, è record di giovani scoraggiati. Questo sul quotidiano nazionale. Il Messaggero: un giovane su quattro non lavora e non studia. Sono la cosiddetta generazione NEET, not in education, employment or training, cioè che non lavorano e non studiano e non si stanno neanche preparando. Insomma, una serie di una massa di giovani che non fanno nulla di fatto. Istat: 15 milioni in difficoltà e boom di giovani inattivi. Questo è il titolo, anche questo deprimente, sull'Unità, pagina 5. E ancora, sempre deprimente, la pagina 6 del Sole 24 Ore: giovani inattivi primi nell'Unione Europea, cioè siamo i primi, questo triste primato nell'Unione Europea, ad avere un numero di giovani non inattivi, non attivi. Racconta Rossella Bocciarelli una contrazione del PIL pari al 2,4%, una caduta della domanda interna di 4,8 punti percentuali, crollo del potere d'acquisto delle famiglie italiane anch'esso di 4,8 punti percentuali. Questo è il rapporto annuale dell'Istat che sintetizza l'anno drammatico che abbiamo alle spalle. Insomma, una caduta di intensità eccezionale che giunge dopo un quadriennio di continuo declino. Con queste premesse macroeconomiche, il rapporto Istat passa poi a dettagliare lo scenario sociale dell'Italia del disagio. Spiega che sono raddoppiate negli ultimi due anni le persone in famiglia gravemente deprivate, cioè quelle che presentano almeno 4 sintomi sui 9 considerati. La loro quota è passata dal 6,9% del 2010 al 14,3% del 2012. Si tratta di 8,6 milioni di persone. E i giovani inattivi, siamo al 23,9% di giovani che non studiano né lavorano, 23,9%, uno su quattro dei giovani in Italia che non hanno niente, non fanno niente, non sono né in un percorso scolastico né attivi dal punto di vista lavorativo. Tra l'altro il Corriere della Sera due notizie che ho trovato sul Corriere. La prima, certo, tutto bene a parole per Enrico Letta, incoraggiamenti, tutti bravo a dirgli contento che sei qui, eccetera, ma Ivo Caizzi racconta, pagina 2, Letta che vorrebbe togliere i nostri giovani dall'incertezza totale sul futuro, fare di tutto perché le occasioni di lavoro comincino al più presto, si deve scontrare con le risorse che appaiono limitate. E tra l'altro, racconta il Corriere a pagina 2, la Commissione europea nelle bozze che preparano una decisione del 29 maggio sull'attesa uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo già suggerirebbe vincoli di spesa. Dunque, un primo sì dall'Europa, questo è il titolo, a Letta, ma nelle bozze della Commissione europea già nuovi vincoli per l'Italia. La seconda notizia che ho trovato sul Corriere della Sera, Lorenzo Salvi a pagina 5, riguarda un'intervista che il ministro del lavoro Enrico Giovannini ha registrato per un programma di Rai 2, To Next, e che verrà messa in onda mercoledì sera, forse, è che è andata in onda quindi ieri, e prima di registrare e prima di andare poi all'incontro con le parti sociali, Giovannini ha lanciato questa idea: risorse al lavoro con i tagli alle pensioni più alte. Cari italiani che avete le pensioni più alte, guardate che Giovannini ha lanciato questa proposta. Una delle tante proposte che sono state fatte è proprio questo: è un elemento di giustizia sociale. Nel momento in cui chiediamo impegni a tutti, non si vede perché anche chi ha pensioni molto elevate, puntini puntini, e qui la interrompe la giornalista e chiede: interverrete dunque su questo? Questa è una delle proposte che sono state fatte. E dunque l'idea e le parole che faranno discutere, racconta Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, pagina 5, di Giovannini e il ministro del lavoro è proprio questo, cioè poter toccare i cosiddetti diritti acquisiti per chi ha le pensioni più alte. Questo per quel che riguarda la situazione economica, soprattutto concentrata sul lavoro giovanile, che tra l'altro tutte le proposte sono sintetizzate anche sul Sole a pagina 6, cioè i contratti a tema, gli ammortizzatori giovani, la staffetta generazionale, gli esodati, le semplificazioni, tutte proposte sul lavoro giovanile. Io dico, sono però 80 volte in 10 giorni, come ho twittato, che sentiamo dire che bisogna fare qualcosa per i giovani, e mo facciamolo, perché sentirlo dire 500 volte sembra un po' come la storia della legge elettorale. E lo cito non a caso, cari italiani, perché allora, io lo dico, ho una mia idiosincrasia personale, appena leggo articoli sulla legge elettorale, titoli, passo oltre e giro pagina. C'è chi invece è appassionato e legge tutte le idee sul Porcellum, o meglio, adesso è apparso il Porcellinum, le modifiche al Porcellum, il Porcellinum, che forse arriverà a luglio, che è buona stagione per i Porcinum più che il Porcellinum, ma avremo forse il Porcellinum. Comunque è stato deciso che ci sarà un'elezione di 40, il comitato dei 40 che decideranno se decidere, come decidere di cambiare la legge elettorale. In estrema sintesi è questo: legge elettorale, correzioni entro l'estate. Ecco, questa è la nuova asticella che viene messa all'estate. Emilia Patta, pagina 15 del Sole, il 29 maggio Senato e Camera voteranno le mozioni che daranno il via all'istituzione con un disegno di legge costituzionale del Comitato dei 40, un organismo parlamentare formato da 20 membri della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, 20 della Commissione Gemella al Senato, che riformerà la Costituzione in sede redigente. Il giorno successivo, 30 maggio, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà il comitato di esperti esterno al Parlamento, che avrà compiti solo consultivi, cioè fanno un comitato per chiedergli dei pareri. Ne hanno bisogno. Entro il 31 luglio, infine, primo via libera dei due rami del Parlamento all'istituzione del Comitato dei 40 e soprattutto approvazione dei ritocchi al Porcellum, tesi a prevenire la pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. Sì, perché in tutto questo devono fare con questa fretta, e la metto tra mille virgolette, perché incombe la sentenza della Corte Costituzionale. Sapete che un avvocato ha fatto ricorso contro il Porcellum e quindi la Corte Costituzionale dovrà giudicare se questa legge è costituzionale o meno. E allora devono fare in fretta, sempre coi tempi della politica, entro il 31 luglio la legge elettorale. Ma già litigano, avete sentito i titoli di prima pagina, Repubblica, un altro Porcellum, rissa PD e PDL, intesa minima anti Porcellum, così titola pagina 8 il Corriere, che incredibilmente dedica due pagine anche oggi alla legge elettorale, dicendo che i renziani già tuonano contro questa idea. Ma retroscena di Repubblica anche, da Renzi a D'Alema, pagina 3, rivolta sulla legge ponte, Francesco Bei, Goffredo De Marchis, pare che i renziani ma anche i dalemiani, il PD, dicano no Pasaran, linea dura, opposizione totale alle piccole modifiche che dovrebbero portare dal Porcellum al Porcellinum, vogliono invece cancellarla totalmente. In tutto questo, come non condividere ciò che è la prima risposta in un'intervista che Romano Prodi rilascia alla Stampa a Francesco Semprini? Lo fa da Astana in Kazakistan, dove si trova per motivi istituzionali. Sentite la prima domanda e prima risposta di Prodi. Presidente, sembra ci sia l'intesa sulla legge elettorale, un segnale positivo per il cammino del governo Letta? E Prodi risponde, Inshallah, speriamo bene. Ecco, questo c'è tutto in questa domanda e in questa risposta. Poi Prodi parla in realtà della situazione, Letta ha un governo, abbiamo un governo guidato da un primo ministro valido, mi auguro che non si torni presto alle urne, l'esperimento parte proprio adesso. Poi parla del Movimento 5 Stelle, che dice lo considera un segno dell'indebolimento della politica tradizionale. Si rischia con questa deriva di arrivare alla mediacrazia. Prendiamo Beppe Grillo, dice Prodi, lui è l'anima del network, un organizzatore che agisce in maniera scientifica, il fenomeno televisivo è invece una conseguenza dell'interesse che i media nutrono nei suoi confronti. Ripeto, comunque la portata del fenomeno è tale da non poter riguardare solo l'Italia. Insomma, un Prodi che alla domanda riforma elettorale, ci siamo Prodi, ci siamo, Inshallah. Ieri Epifani, il segretario del PD, apre a Berlusconi, come titola Repubblica, pagina 6, non è ineleggibile, nel PD scoppia la fronda. Vabbè, la politica è un po' questo, c'è anche la questione del Movimento 5 Stelle, fa discutere questa mail che è stata spedita ai deputati, dicendo in pratica adesso attenzione, non accettate tutte le interviste, se proprio volete accettare un'intervista andiamo nella sala del gruppo dove registriamo tutto, perché ci sono alcuni giornalisti un po' malfidati. Allora Fabrizio Roncone racconta a pagina 10 del Corriere della Sera, i 5 Stelle spiati in corridoio e la blacklist dei cronisti, racconta Roncone, nessuno di noi giornalisti può sapere se è già stato inserito nella blacklist, la lista nera del Movimento 5 Stelle. Certo, però andiamo a intervistare Andrea Cottone, uno degli addetti stampa del Movimento 5 Stelle, che dice ma sì dai, state pompando sta cosa delle liste nere, volete sempre farla passare per una cosa dittatoriale. Tanto per cominciare, noi siamo liberi di scrivere ai nostri deputati tutto quel che ci pare, fornendogli suggerimenti che ci paiono opportuni. Noi riteniamo sia arrivato il momento di parlare di contenuti, tu vuoi parlare di un argomento e noi ti indichiamo il deputato più giusto. Ma è chiaro che anche la storia delle diarie l'avete trasformata in gossip. Insomma, racconta il Andrea Cottone, tra l'altro ex giornalista, cioè giornalista del Fatto Quotidiano, Tutti i deputati sanno perfettamente che alcuni giornalisti sono corretti, altri meno, molto meno. Anche sulla stampa Andrea Malaguti, la mail ai 5 Stelle è un errore, i parlamentari parlino con chi vogliono. C'è Claudio Messora, che è il capo responsabile della comunicazione al Senato del Movimento 5 Stelle, vicino a Gianroberto Casaleggio, che critica invece l'iniziativa della mail inviata dal suo omologo alla Camera, Nicola Biondo. Dice in questa intervista: i senatori sono stati eletti dal popolo, hanno il diritto di parlare dove vogliono, quando vogliono e con chi vogliono. Forse il problema è alla Camera, che sono 109 deputati, noi al Senato quindi abbiamo 53, quindi la situazione è un po' più controllabile. Vabbè, insomma, c'è questa disfida sulla questione della comunicazione con il Movimento 5 Stelle. E il Giornale rilancia questo tema del carcere per i giornalisti, ricordate la vicenda Sallusti, e lo fa perché è arrivata una sentenza di cui dà notizia solo il Giornale. La sentenza riguarda il direttore di Panorama Giorgio Mulè e il giornalista di Panorama Pietro Marcenaro, entrambi condannati per diffamazione, ma siamo al primo grado. Diffamazione nei confronti del procuratore capo di Palermo Francesco Messineo, che si è sentito diffamato, ha querelato e la causa ha portato a una condanna in primo grado a 8 mesi di carcere senza condizionale, quindi da scontare, per Giorgio Mulè, direttore di Panorama, per l'appunto, e 1 anno di carcere per Pietro Marcenaro. Ripeto, è il primo grado, ci sarà l'appello e ci sarà la Cassazione. Comunque il Giornale ci riprovano: carcere per i giornalisti. Alessandro Sallusti comprensibilmente fa un editoriale in prima pagina: i giudici vogliono silenziare Panorama, carcere ai giornalisti, ci risiamo. Un altro giornalista, anzi due, in un colpo solo condannati al carcere per un presunto reato di diffamazione. Così inizia l'editoriale di Sallusti e poi all'interno il Giornale dedica pagina 3, 2 pagine a questa vicenda. Cosa c'è da dire ancora in un minuto? C'è da dire che Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, parla anche in un'intervista a Repubblica, intervistato da Rodolfo Sala, racconta anche delle ultime violenze, come la rapina molto violenta in via della Spiga e quindi in pieno centro a Milano, a una gioielleria. Sì, a Milano l'emergenza sociale fa aumentare furti e rapine. Questa è la frase del titolo dell'intervista, che certamente può anche far discutere. Ripeto, a Milano l'emergenza sociale fa aumentare i furti e le rapine, così il sindaco Pisapia. Ma guai a speculare sull'odio, dice Pisapia, quegli scontri. Parla degli scontri anche allo sgombero del centro sociale, non hanno nulla a che vedere col tema sicurezza, la violenza non può mai essere di sinistra, ma dice Pisapia c'è un'emergenza sociale aggravata dalla crisi economica che incide sulla vita di tutti i cittadini e inevitabilmente anche sulla sicurezza. Non possiamo accontentarci dei dati che a Milano fanno registrare una diminuzione dei reati in generale, ma anche un incremento di quelli predatori. Io ho una convinzione: non bisogna speculare sull'odio, dopo i fatti gravissimi dobbiamo somministrare una medicina giusta, risolvere i problemi, non aggravarli. Questo Giuliano Pisapia poi continua ovviamente nella sua intervista. Trovate moltissimo, chiudo anche così, sia sulla terribile vicenda dell'omicidio in strada catalogato come terrorismo in Gran Bretagna, due persone che hanno ucciso un soldato con il macete per strada, al grido, secondo i testimoni, di Allah è grande, e sia trovate molto sulla scomparsa di Don Andrea Gallo. Questo lo trovate davvero su tutti i giornali. Il Secolo XIX dedica anche proprio una prima pagina speciale, Beati gli ultimi, dedicata totalmente al sacerdote scomparso ieri a Genova.